in tutte le sedi istituzionali e anche di fronte ai cittadini, anche qualche volta informalmente. Da questo punto di vista, se c'è una richiesta di un'indagine parlamentare, non spetta al Presidente del Consiglio un commento. Evidentemente è un'iniziativa parlamentare e il Parlamento deciderà. Come pure, se c'è un'inchiesta da parte della Procura di Bergamo, è giusto che anche il Presidente del Consiglio si renda subito disponibile come persona informata sui fatti. Grazie a entrambi i genitori, ci tengo a sottolineare sani. Ho perso due genitori sani, mio papà Federico Renato, 72 anni, e mia mamma Antonietta, 73 anni. Com'è andata con loro? Allora, è successo che, non rispondendo al telefono, io e mio fratello ci siamo preoccupati e la mattina del 18 marzo mi sono precipitato a casa dei miei genitori. Ho trovato mia mamma con una crisi respiratoria molto grave e una febbre 39 e mio papà invece una febbriciattola, però era in uno stato di non lucidità, non era presente. Ho prestato subito i primi soccorsi a mia madre, ho chiamato subito mio fratello, abbiamo chiamato subito il 112. E niente, l'ambulanza è arrivata dopo un quarto d'ora, 20 minuti, e ha soccorso subito la mamma, che ci è stato detto subito che sembrava un caso di Covid-19 grave. Nel frattempo i due operatori che sono venuti a soccorrere la mamma hanno chiamato un'altra ambulanza per il papà. Quindi mio fratello ha detto a papà dai, cambiati e vai. Lui si è cambiato e con le proprie gambe è salito sull'ambulanza. Quel giorno lì sono andati via tutti e due ed è stata l'ultima volta che li abbiamo visti. Diego Federici e suo fratello in 4 giorni hanno perso entrambi i genitori, sani, ripete più volte. E quello che è successo lo tormenta perché ora che con più precisione si mettono in fila dettagli, ricordi e riflessioni, ora è sempre più convinto che quei due settantenni bergamaschi, nel pieno delle loro forze, meritano di sapere, dice, se potevano essere salvati in un altro contesto, se sono stati commessi errori e cosa andrebbe cambiato. Ci è passato dalla testa qualsiasi cosa. Noi pensavamo che in ospedale ricevessero tutte le cure possibili. Ad ogni nostra domanda o non ci veniva data risposta o veniva data una risposta generica. Quindi non sapevamo cosa stavano facendo, se stavano provando a curarlo, se non stavano provando a curarlo. Non avevamo rapporto, diciamo, con gli ospedali. Ci è stato negato anche quello, oltre al fatto di non potergli stare vicino, non potergli vedere. Siamo passati da il signore mangia da solo e va in bagno da solo, è morto. È stato proprio così, ha funzionato così purtroppo in quel momento. Cioè, quindi secondo lei, diciamo, in un'altra situazione suo padre si sarebbe potuto salvare, in un'altra situazione che non quella in cui, diciamo, in cui gli ospedali erano travolti, non riuscivano a portare cure? Allora, purtroppo non ho la certezza di questo e non potrò mai averla. So soltanto che la malattia è grave, non è una banale influenza, perché ho visto mia madre, una donna di 73 anni, che spaccava il mondo, l'ho vista a terra, che non riusciva a respirare, quindi una malattia seria. E non saprei mai se in un altro periodo di tempo magari fossero guariti, perché muoiono tuttora. So semplicemente che la non chiarezza e il fatto di non essergli stato vicino ti mette nella testa tanti dubbi. Cosa la porta, sì. Cosa l'ha portata a presentare una denuncia in procura? Allora, ci ha portato a me e mio fratello a fare questo. Innanzitutto il gruppo su Facebook è nato Noi Denunceremo, è nato per far capire alle persone, per far conoscere alle persone che non prendeva soltanto anziani con patologie pregresse. E questa denuncia che abbiamo fatto creando un comitato ci permette, se sarà possibile, se avremo la possibilità, di avere la verità su ciò che è successo e di conseguenza avere giustizia per due persone meravigliose che ci hanno lasciato nell'arco di 4 giorni, perché se lo meritano.